legge. Tutta la voce mi sembra già in 144. Io? Non è cattivo, Gianni. Sono sdraiato, mi sto rilassando. Down China? Sì. E allora, cosa mi dici? Dimmi con casa. Io devo dire a conti. Nulla, che stamattina eravamo alla maestra per fare spese per il circolo. E dunque ho fatto un giro lì e poi sono rientrato a casa. Cara gara e cara Roger. Ma già ieri ne avete fatto un QSO? Cosa? Sì, ce n'era gente, QSO ne avete fatto? Sì. Sì, ce n'era. Cappa, io ero fuori casa, non son potuto entrare. Non c'è problema, c'è bisogno di giustificare, ognuno ha le sue cose da fare. No, non mi sto giustificando, però mi è dispiaciuto non poterci essere. Vabbè, niente. Abbiamo fatto un po' di risate, basta. Già, va bene così. Lo già. Eia. Non so cosa hanno segnato ieri. E hanno segnato un po' di roba, già. Ieri l'aveva preso di mira, Ieri ho preso proprio di mira. Il cammello con le gomme, lo zarretto, le sardine. Cazzo, da Franchetto stavano cucinando le bistecche di cammello o di cavallo. Oggi non ho lavorato, ti sento offeso. No, io oggi no, il lunedì non lavoro, io già. Ah, è vero, se lo sapevo, sono libero anche io. Io sono libero anche adesso, problemi non ce n'è. Ma io sono sbagliato. Sì, sono sceso a lavorare, avevo chiesto il permesso perché devo fare una visita, poi mi hanno chiamato che il dottore aveva rimandato l'appuntamento e io gli ho avvisato. Sono stato dimenticato che non avessi il permesso, sono sceso per lavorare, hanno messo il sostituto e quindi ho messo andato. E capa, almeno, vedi, non ti è andata bene, ma l'altra cosa ti è andata bene. Già mi è andata bene perché ho fatto un po' di roba stamattina, ma un bel barone. Ma mi sono avvicinato anche io. Ah, ti ha pulito tutta la macchina? No, perché pulito, ho smontato la antenna, l'ho tutta pulita. Adesso da uno o due che ci aveva, le stazionali c'ha quasi zero. E cappa, va bene, dai. Mi sono cercato di comprare quella cosa là, cazzo, già, la metro, cazzo, le spugne d'acciaio, l'acciaio. Ma che cosa? Per pulire l'antenna? Lappa. Che cosa c'ha sporca? Sì, quasi pietà, sai lo pulire, pietà, fa veramente schifo per l'antenna, la devo tutta pulire. Attenzione però, perché la lana d'acciaio molto spesso tende a innescare la ruggine sull'acciaio. Ma io metto solo lo stilo, Antonio. Anche lo stilo a volte. Io mi ricordo che avevo fatto un trattamento a un coltello così, che aveva la lama in acciaio. Beh, morale, si prendeva la ruggine dopo che gli ho fatto quella passata lì. Conviene prendere invece, secondo me, la carta abrasiva fine. Quello non lo so, Antonio. Io sulla mia antenna uso sempre la lana d'acciaio, ma di quella grossa, non di quella fina, arrugginita, di quella grossa, a spugnetta. Quella spirale? Cappa. Esatto, l'altra invece tende a mettere la ruggine. L'altra sì, perché già mezzo rugginosa, da tanto di Ravenne. No, quella spirale, quella lì prendo io, che sembra lana, proprio, che è fatta a cuccioli, là. Cappa, Roger. Non mi ha mai dato problemi, tanto è vero che ho smontato tutta l'antenna, l'unica cosa che c'aveva un po' di ruggine era il perno che entrava nell'antenna, che bloccava l'antenna, poi tutto il resto era perfetto, tu pensa che la capota sotto era come l'avevo fatta 9 anni fa, secondo c'è di ruggine. Ma tu immaginati, basta dargli anche una passata di vaselina, poco, e diventa... cioè non mette mai ruggine, è proprio un velo. Sì, ma dopo ti sono le contatti anche, non io uso spray per contatti, va bene quello lì per pulire bene. Scappa Roger. So quello che ho montato. Era un bambino. Anzi, ti stavo mettendo una rondellone sotto. Mi viene a mettere, metti un rondellone in acciaio per tenere bene, perché magari se mi è stato un rotone di uno è pesante. Allora vado a mettere il rondellone e risultava, non aderiva bene la plastica della gomma, la gomma che c'è sul tettuccio che deve aderire, no, per far entrare l'acqua, non aderiva bene. Sta pagata. Perché aveva preso già la forma, già come l'avevo piazzata, e quindi se tu li mettevi quello non aderiva bene, allora non è giocava da dormire. L'hai fatto bene. C'hai la chiavetta per montare la Turbo 2001? Io c'ho tutto. Capo, vabbè, non ti volevo disturbare. No, ma la prossima volta la pulivo con questa lana d'acciaio che ho a casa, hai capito? La facevo qua direttamente. Ma tu non la devi smontare, se no le stazionali poi ti aumentano, se non sei come la messa, ti aumentano le stazionali, tu devi praticamente pulirla fuori. No, all'interno, se la pulisci all'interno devi regolare la stazionale di nuovo. Devo smontare, no? E se tu la vuoi smontare, però tu bisogna fare tutto il lavoro da capo, ripristinare le stazionali. Sappa. E comunque stai riuscendo bene, Giuseppe. Ma con questa cosa qua? Sì, 9:10, Radio 5 qua. Sono dall'altra parte della città. Vabbè, questa è la base, questa è la stazione fissa. No, io parlo della macchina, hai capito, che mi vuole pulire quell'antenna, che da quando me l'ha data, certo, non l'ha mai pulita quella cazzo di antenna, hai capito? Ascolta, ma no, io non toccherei lì nella base, siccome parlavate di mettere la Ringo, ma non ne vale la pena, lasciaci quella. Ci lascio questa, mi compro il palo telescopico e poi si vedrà come piazzarla, capito? Ma devi mettere la manto? Poi la manto però non si può piazzare già. La metti come non radiale, ma la metti. Sì, ma è troppo pesante quella cosa, Gianni, è troppo pesante quella mandova. Adesso, a Giomano ci stava nella macchina, capito, come l'abbiamo montata giù a Udine. Abbiamo dovuto tagliare con un paio di pezzi perché non c'entrava, hai capito? Vabbè, vabbè, allora metto l'antenna che si addice, cosa che ti dica, Giuseppe? Guarda che le staffe, se tu hai la mantovana, ce li ho io due staffe. No, per la mantova. E allora? E capa. E vabbè, adesso vediamo, come dice Alessio Pompugno. Vediamo un po', perché la mantova tocca fare un lavoro, piazzarla sul tetto, hai capito, chiamare anche la scala aerea e qua me la piazza lì direttamente con due tiranti come Dio comanda e poi non toccarla più, capito? Il cavo nuovamente grosso e non quello fino, oppure anche il fino per anche 30 metri di cavo, capito? Grosino. Cosa ci vuole la chiave a brugola per quella cosa là? Se devi montare lo stilo ci vuole la chiave a brugola, se no bisogna svistare solo, bisogna che venga qua, ma bisogna vedere quella lì come è stata chiusa, dove è stata fatta, perché non è stata camuffata. Tu sei coricato, non ti voglio rompere le scatole. Guarda, forse adesso devi fare. E quando la vuoi fare? Io ne ho adesso, me ne approfitto adesso perché poi domani non posso. No, sto lavorando e non ce la faccio a farlo. sono coricato, tanto mi sto riposando. Oh Giuseppe. Ah, non è più tardi. E va per là, verso le 5. Ma mi sembra che adesso il segnale sia migliore, sto accordando, Gianni, taglio tu il controllo. Sai, si deve girare che è quel catto. Ma non è quello il problema è che non ho andato poco a fare il segnale. Aspetta, ti faccio un passaggio diverso, Non giusto perché voglio vedere se è accordato esce meglio. Così no, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allora, così non è accordata, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E se non è 5, poi... E così è accordata. Ola, ola, ola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Così va meglio, 9, 20. Sì, guadagno addirittura un coso. Non va bene. Non va bene allora. È così. No, se mi dici così che è 9.20. Boh. Allora la devo sistemare. E così cosa ne dici? Guarda un po'. Ehi, no. Ola. È sempre così a segnare. No, un po' si è alzato adesso, guarda. Sempre 9.20, sì. Adesso la lampada si è messa a posto. Non ti preoccupare, era... stavo controllando una cosa. Gianni. Grazie Giuseppe, dimmi. Da Lidl ci sono gli stivali impermeabili da uomo e da donna. Costano 13,99 euro, tipo quelli che c'hai tu, hai capito? No, non saranno proprio come quelli che ci voglio. I miei sono da pesca e sono imbottiti, sono invernali. Sono quelli proprio da pesca, comprati da Torre a ripunti. Ma quelli come sono, Leonci? Sono con il coso dentro, che ti danno caldo e ti fanno, diciamo, il coso... No, che non si bagna il piede, capito, dentro. Sono, come sono? Non ho capito cosa hai detto all'inizio. No, sono caldi, stivali, robusti e resistenti alle prese, con rivolto alle coste, vabbè, la polvere calda, estraibile, in alluminio. Addirittura in alluminio sono. Aspetta, e quanto costano? In alluminio. 99. Quanto? €1,99. È poco, e poi cosa c'è in offerta? C'è un carrello bellino, allora carrello più debole in alluminio, 39, alluminio. Lampis non ce n'è? Lampis. No. Siccome c'era, di che cosa sono? Di che marca era quello lì? Cosa? Il caricabatterie. Tronic. Lampis non ce n'è? No, Lampis no. Tu che sei da uno che lavora la città marca? È Tronic. Roberto Lampis. Oh, Iulia. Chi è che si è lamentato? Sono io. Buonasera a tutti. Ciao, Vittorio Fox. Qui da questa parte ho acceso adesso e ho sentito cosa sta succedendo in questa radio. Ma sei a Vittorio Giove? Un negativo, Pucci, sono Vittorio Volpe. A Vittorio Volpe, scusa, sento confuso l'altro Vittorio Giove. No, non c'è problema, sono con Gianni comunque, che so che lui sempre è catto. Ciao Vittorio, ciao bellissimo, carissimo, dopo tanto tempo. Io non trovo facendo anch'io, sai, faccio molto ascolto comunque, mentre voi parlate, eccetera, io ascolto, è sempre bene anche ascoltare, per conoscere anche la dialettica che si trasmette nella radio. A te. Cappa, qui ti sei divertita, la facciamo. Bisogna anche ascoltare, non è che puoi stare sempre a parlare, qualche volta devi fare ascolto per ammirare anche chi parla. Ma sì, che si tratta di ammirare, cioè, va bene. Avanti, Brodino. Cappa, ma non te l'ho mai chiesto, ma c'è un grado di parentela o no? Sì, certo. Ma grado è voi, che sì. Ragazza, è Cava Roger. Avanti, Leon China. Quindi non mi hai suggerito niente da poter andare a comprare? Ci sono, guarda, maglia da uomo, due pezzi, però Liberty, la marca è. Ma è coso, è cose elettroniche, non ce ne sono? No, cose elettroniche, no, niente, no, solo questa cosa qua del caricabatterie e basta, non c'è altro. No, niente, non c'è altro. Perché di solito fanno delle ottime offerte, quelle della Lidl, perché se non le prendi al volo arrivi lì e sono tutto cioè svuotano tutto nel giro di pochi secondi. Io lo so, ma non c'era niente, adesso c'è questa cosa qua, i pupazzi, quelle, come si dice, i vestiti per carrellare. Ci mettiamo a carnevale. Gianni. Gianni, ce l'ha già pronto il vestito di carnevale. Non mi devo vestire la stecca. La mazza trescenda. Da cosa si deve vestire? Diglielo tu già. No, diglielo tu. Non ci riesco a dirlo. Dillo, cosa mi devi dire? Non essere timido. Che cosa? Cioè, non l'ho compreso. Vedi, quello che ci mette da aperto, dai, come cavolo si chiama quello, l'orco. Shrek. No, Hulk. Shrek. Che verde non è Hulk, cosa no? Shrek! Zacchi, come capa la risa! Ma io dillo! Non ci riesco! Hulk, cosa ci vuole Hulk? È Hulk, è un altro personaggio che c'è anche che fa la femmina. Aspetta, ma cazzo si chiama la femmina? La moglie di coso. Ma com'era già la moglie di quel Shona Trekkese Trek. Dimmi un paio di nomi di fumetti, tu ne fai collezione di fumetti? No, negativo. Non ce l'hai Zago? No. Mi fate raccontare da Gianni quando sono andato a casa sua e c'era il figlio, no? E ha tolto questo pupazzo, mi dice tu, questo ti assomiglia a te, Giuseppe. Ha detto vai, assomiglia più a te che a me. Chi era? E tanto si è fatto una piccola risata, Marcolino, no? Furbo. Ha pigliato il guapo, ha pigliato. Ui, Shrek, riesci a vedere? è un burlone. Garandong? Cosa hai detto? Arandong. Tu riconosci Fumetti Arandong? No. Come no? No, non riconosco, quanto. Sono l'unico che li legge e mi ha detto: se conoscete qualcuno che si vuole comprare la collezione, mi che ce l'ho. Sempre cercare di far su che si grotte, affarista, avanti forte. Giuseppe, dimmi, quell'antenna non va smontata, lo stilo va smontata praticamente a parte di sotto dove c'è la carica. Lì va smontata, è pulita. Già, non mi capo faccio smontata, boh. Sa girarla e si smonta. E poi... Che se ti togli lo stilo, poi bisogna regolarlo di nuovo. Lo so. Boh. Va bene, un attimino di QRX per me, sono in ascolto. E fatta che non vai a copiare con piccolino, cazzo ci stai un'ora, Guarda, mi sa che vado al 144 piccolino. Ah, vabbè dai, vado con 144, ma non lo fa. Vabbè dai, ci sentiamo più tardi già, dai, ti lascio riposare tranquillo. Vabbè, ci sentiamo allora, ciao ciao, avanti voi. Sono qui già, sto facendo dei lavoretti, sono in ascolto. Non mi allontano molto, però non è che posso rispondere sempre subito, perché sono un po' pesantino. Mi capisci?